Accavallati come Avengers, in squadra come i Lakers. Non faccio più il delinquente, la musica paga bene. Rischia se ne vale la pena, se no dopo in cella scleri. Sto in giro tutta la sera, Audi nera, vetri neri. Packer sopra un tema, casca high, casco nero. Petas, guadagno lega, ma il giudice non mi crede. Stai lì a fare i meme, sto fatturando i mille. Cerco di fare il serio e non tornare a far crimine. Oltrepasso ogni limite, le sto sfilando l'intimo. Glock 9 mm, che sparo mi scoppia il timpano. Mentre va in casa la Digos, prenderò casa Migonos. Ho addosso due ferri, è mai stato al poligono. Oltrepasso ogni limite, le sto sfilando l'intimo. Glock 9 mm, che sparo mi scoppia il timpano. Mentre va in casa la Digos, prenderò casa Migonos. Ho addosso due ferri, è mai stato al poligono. Incazzato come Kimbo, hashish nascosto in frigo. Profumata la sua figa, ci nuoto come un delfino. Vuole da me un bambino e cambiarli pannolini. Stai parlando con un dealer, mica un tipo con i piercing. Non aprire come dissing, finisce a chi l'ha visto. Sto finendo un altro whisky, sto spartendo un nuovo chilo. No, chiamo Motorola Wico, chiama distribuisco. Siamo in quattro come i Beatles, armato pure l'autista. La costa come un tennista, io maranza, tu babbo di minchia. Mischia coca e picca, manite, aumento cifra. Il processo in tutta del Milan, frega un cazzo come Ibra. Sto sul cazzo a mezza scena, non lecco il culo per visual. Oltrepasso ogni limite, le sto sfilando l'intimo. Glock 9 mm, che sparo mi scoppia il timpano. Mentre va in casa la Digos, prenderò casa Migonos. Ho addosso due ferri, è mai stato al polizio.